Il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige. A cura di Emanuele Cenghiaro. In questa puntata del quadrifoglio parliamo di sprechi, o meglio, delle possibilità di limitarli attraverso il recupero delle eccedenze alimentari. Le ACLI del Veneto da qualche anno promuovono un progetto che mira proprio al riutilizzo di queste eccedenze che vengono recuperate e riutilizzate facendo in modo di limitare gli sprechi prodotti da alcuni istituti scolastici, ma anche mense e aziende del settore alimentare. Ne parliamo oggi con Mario Zanazzi, coordinatore per Padova di questo progetto che è attivo anche a Rovigo, Verona e Vicenza. Benvenuto Mario. Buongiorno a tutti gli ascoltatori e a voi. Com'è nato questo progetto? Il progetto nasce da tre esperienze in particolare. La prima è quella di Last Minute Market, che ha aperto la strada, ha aperto questa strada ed è sicuramente l'esempio più famoso. Last Minute Market a Bologna, no? Sì, dell'Università di Bologna. Il secondo è il progetto Ebus, che a Verona già da molti anni opera su questo stesso campo, quindi del recupero in generale delle risorse alimentari. E il terzo è l'esperienza specifica che è stata fatta qui a Padova con il cibo oltre la mensa, ed è stato il progetto di recupero dei pasti già pronti che nelle mense delle scuole non venivano consumati. Queste tre esperienze hanno generato in pratica un nuovo progetto di recupero globale di tutta la sovrapproduzione alimentare che si chiama Rete Solida, che già a Padova è attivo. Ecco, si tratta soprattutto quindi di prodotti alimentari? In particolare sì, una grossissima parte dello spreco che noi vediamo tutti i giorni è proprio del settore alimentare. Ci rivolgiamo però anche ad altri tipi di eccedenze che possono essere tranquillamente riutilizzabili, e in particolare farmaci e parafarmaci, e che però hanno bisogno di un circuito di controllo sicuramente più stretto, insomma. Rispetto al lavoro che è stato fatto, avete dei dati e avete anche un'idea di quanto ancora si potrebbe, quanto ancora c'è da fare rispetto al recupero appunto di questi prodotti? La sperimentazione che abbiamo fatto a Padova sul cibo oltre la mensa ci ha fatto raccogliere nel primo anno di attività circa 15.000 kg di cibo, che non era stato consumato, quindi né utilizzato dalle scuole. Diciamo che è corrispondente di circa 200 pasti. Se noi potessimo allargare questo progetto alle scuole di Padova, che oggi hanno una mensa, potremmo arrivare anche a 700-800 pasti al giorno, che potrebbero essere tranquillamente consumati in tutta tranquillità. E questo è solo per dare un dato generico sul recupero di pasti pronti. In realtà però la sfera interessante e importante è quella che riguarda lo spreco alimentare in generale, quindi quello che riguarda la grande distribuzione e quello che riguarda la sovrapproduzione soprattutto di prodotti agricoli. Ecco, questi prodotti alla fine che voi recuperate dove vanno a finire? A chi vengono dati? Ci rivolgiamo come beneficiari alle associazioni che fanno attività di accoglienza e a tutte le strutture ricettive. Certo, e concretamente come avviene questo? Cioè c'è qualcuno che va nelle scuole, recupera questi prodotti, per esempio le scuole, e poi li porta direttamente in queste strutture? Siete voi? Sono direttamente le associazioni o questi centri che si occupano di questo? La logica di questo programma di Rete Solida è quello di non sovrapporre un'altra struttura a qualcosa che già esiste. Il compito è quello, in pratica, di mettere in contatto i beneficiari direttamente con i soggetti donatori. Quindi i volontari possono recuperare direttamente e nel giusto posto le quantità di cibo di cui hanno bisogno, e questo per poterlo fare poi regolarmente e quindi dar continuità a tutto il circuito. Quindi il trasporto è a cura delle associazioni beneficiarie e Rete Solida fornisce soltanto un supporto di tipo logistico organizzativo e che serve proprio per favorire questo genere di contatto. Ci fermiamo per qualche minuto, a tra poco. Il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. I don't need to be no hero. I don't need to be no saint. I don't expect no crowd attraction. No world to hear the things I say now. But love, isn't this our life? Isn't this our time? What we longed for years. Oh, I feel a lack inside of a strength or pride. That's the way I feel. I'm weak, too weak to hold the weight that grows inside of me. There's a secret thread in quiet lies, so weak, too weak to rise up from the ground. That's me, not the one who's walking by your side. Too weak. Never meant to be no hero. Never thought of being no saint. I fought to do what I was due to. No dark regrets and debts I pay. No. Love, I was satisfied by the end of fight with the spoil you've gained. Oh, I know the state of mind, something left behind. That's the way I feel. I'm weak, too weak to hold the weight that grows inside of me. There's a secret that's in quiet life. So weak, too weak to rise up from the ground. That's me, not the one who's walking by your side. Too torniamo in linea con la trasmissione Il Quadrifoglio. Oggi stiamo parlando di sprechi e di recupero di eccedenze alimentari. Lo stiamo facendo con Mario Zanazzi delle ACLI del Veneto, che è coordinatore di un progetto che si chiama Rete Solida, che si occupa appunto di questo. Abbiamo parlato di recupero di eccedenze nelle scuole, nelle mense, e state facendo qualche cosa anche con la grande distribuzione? Sì, stiamo cercando i contatti per poter organizzare un circuito che sia soprattutto continuativo e che dia la possibilità alle aziende di avere una discreta continuità di ricezione e naturalmente alle entità riceventi di avere un approvvigionamento continuo. Naturalmente il nostro impegno è soprattutto orientato ai prodotti che hanno la possibilità di essere consumati freschi, per così dire, e quindi l'ortofrutta e in particolare cercando di entrare in contatto con il mercato ortofrutticolo, che è uno dei più importanti d'Italia, quello di Padova, e con la rete dei produttori che sono soci del mercato. L'altro canale è quello delle grandi organizzazioni dei produttori che hanno delle eccedenze di produzione sono quelle famose che non vengono neanche raccolte, tanto per intenderci, e che vengono lasciate sui campi, che possono essere trasportate attraverso viaggi che vengono organizzati in particolare dal sud Italia e distribuiti al nord per scopi di solidarietà. E rispetto al Banco Alimentare, che è un'altra iniziativa molto diffusa nel Veneto che si occupa di recupero di prodotti che vengono anche destinati a famiglie indigenti, voi siete diversi, è un altro tipo di attività o c'è qualche cosa di simile? Il Banco Alimentare ha un circuito di approvvigionamento che è completamente indipendente ed è un circuito consolidato negli anni, stanno facendo un lavoro grossissimo, hanno una grande quantità di materiale e stanno allargando anche i loro depositi. La logica di cui parlavo prima rispetto al progetto di Rete Solida è quella di non avere un altro deposito verso il quale orientarsi per l'approvvigionamento, ma invece cercare di mettere in contatto il circuito di produzione con quello della solidarietà. Ed è per questo che noi spesso troviamo che le organizzazioni che si rivolgono al nostro circuito sono le stesse che poi hanno approvvigionamenti anche dal Banco Alimentare. Certo. Ecco, rispetto a queste tematiche, un po' del recupero degli sprechi, ma anche degli stili di vita, come ACLI del Veneto siete anche attivi, ci sono altre iniziative su cui state orientando? Rete Solida in realtà è un acronimo che significa relazioni, territorio, economia e solidarietà. Sono argomenti che in questo momento tengono grande banco, perché proprio sono all'ordine del giorno. Ed è evidente che il fatto di riuscire a coordinare un circuito che mette in relazione il non profit, ovvero sia tutte le associazioni, le case di accoglienza, gli istituti, con il mondo della produzione, ha evidentemente uno scopo diverso dal solo e semplice eliminazione di spreco, ma quello di generare un tipo di economia che sia più solidale e che sia più attenta alla conservazione al territorio. Grazie. Passiamo adesso ad alcune notizie, ma ricordiamo anche che per avere ulteriori informazioni sul progetto Rete Solida si può visitare il sito internet www.retesolida.it. Iniziamo parlando di api per segnalare che sabato 9 marzo è in programma per gli iscritti al registro regionale dei tecnici apistici del Veneto una giornata di studio sugli aspetti legati alla gestione igienico-sanitaria dell'allevamento e alla qualità delle produzioni apistiche. È organizzata dal Centro Regionale per l'Apicoltura in collaborazione con l'Istituto Zooprofilattico delle Venezie e si terrà all'Istituto Sartor di Castelfranco Veneto. In una recente trasmissione abbiamo parlato di mais, ci torniamo brevemente perché i dati Istat da poco diffusi parlano di una produzione del 2012 crollata a 8,2 milioni di tonnellate, ovvero il meno 12% in un anno. Aumentano quindi le importazioni in Italia e il mais entra a far parte dell'elenco dei prodotti che rendono l'industria agroalimentare nazionale sempre più dipendente dall'estero. Ma anche a livello mondiale sta salendo l'allarme sulla consistenza degli stock di questo prodotto. A risentire in Italia è soprattutto il reparto dell'allevamento, visto che l'alimentazione di bovini è per la quasi totalità a base di silo mais. È stato indetto dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, nell'ambito delle attività del programma Rete Rurale Nazionale 2007-2013, il secondo concorso Nuovi Fattori di Successo. Questo premio è finalizzato a valorizzare e diffondere le buone pratiche nello sviluppo rurale realizzate da giovani agricoltori nell'ambito dei fondi strutturali FEASR. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il 22 marzo. Informazioni e bando si possono trovare sul sito www.reterurale.it. Concludiamo parlando di foreste. Entra in vigore il 3 marzo il regolamento dell'Unione Europea numero 995 del 2010 che mira a proibire l'immissione nel mercato comunitario di legname prodotti a base di legno di origine illegale, che ancora oggi è stimato essere tra il 15 e il 30% del commercio di legname. Un fenomeno che, oltre a essere fonte di mancato guadagno per gli operatori che operano legalmente, è anche tra le cause della deforestazione indiscriminata e della perdita di biodiversità. La normativa riguarda tutte le imprese della filiera del legno e della carta. Sempre in tema di foreste, il 21 marzo verrà celebrata la Giornata Internazionale delle Foreste, indetta dall'Organizzazione delle Nazioni Unite. Questo argomento sarà al centro della prossima puntata della nostra trasmissione. Anche per questa settimana quindi è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima e vi ricordiamo che potete riascoltarci sul sito internet www.bluradioveneto.it.